Quando parlano a volte mi sembra di capire, ma in realtà non mi illudo, vorrei essere a casa coi miei occhi a sognare. Cerco invano una sedia, ma anche sotto il divano, e non sono che un chicco in un campo di grano. Quando vado a una festa ride e stringo la mano, in realtà sto cercando l'uscita e la mangio con gli occhi. Quella porzione di vita, prendo solo una fetta, però vado di fretta e già sento quel nodo stringersi. E ogni mio respiro occludersi, la mania aprirmi e chiudermi. Sopra il tetto del mondo, un parapetto dove sporgersi, l'ultimo grido che mi afferra la gola, smorza il mio fiato, perché amo ogni cosa, lo so. Quando guardo su in alto già mi manca il soffitto, tanto che buco il cielo al pensiero se guardo poi in basso. Vedo ancora i miei piedi galleggiare tra le stelle, che anche quell'universo dentro il buio sembra muoversi. E di colpo sento sciogliersi quella voglia nascondermi, l'ultima rosa già la stringo, la sento, cerco la spina dove pungermi, vedo la vita quasi corrermi incontro, scusare il ritardo e ringrazio tanto per la cortesia.